Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. We got to do. E buonasera, buonasera, eccoci qua a tutte e tutti, tutto voi ascoltatori di Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Qui è Nervature, come sempre alle 19 di ogni lunedì, e quindi infatti anche questo lunedì. Oggi Addu qui con voi, ma non solo, perché questa è una puntata registrata, quindi non vi do neanche i contatti del pad per iscriverci in diretta, perché non vi risponderei. Infatti oggi è una puntata un po' particolare, perché vi andrò a ripassare una vecchia puntata di un'altra trasmissione di Radio Wombat, ovvero Slick Chick. Slick Chick è ancora attiva oggi, e ci sono state varie pause, ma è ripartita, e quindi trasmissione veramente vetusta di Radio Wombat. E questo è un po' un filone che seguirò in estate, e forse non solo, ovvero mi piacerà rimandare qualche puntata non mia, ma di altre trasmissioni di Radio Wombat o di altre radio sorelle, che siano in tema ovviamente con Nervature, che come sapete è la trasmissione in cui vi parlo di piante, botanica, giardinaggio, urbanistica, progettazione, chi più ne ha più ne metta. Quindi rimanderò altre puntate, altri materiali audio dalla nostra o altre radio, e questa è un po' la prima volta che provo, che succede. E quindi, come vi dicevo, vi manderò una puntata di Slick Chick, trasmissione, ripeto, di Radio Wombat, una puntata che era andata in onda il 25 marzo 2021, quindi un po' di tempo fa, ma che sinceramente può essere sempre attuale, visto che Slick Chick parla di musica, e in particolare di musica focalizzandosi su un argomento, una parola specifica. Ovviamente sono andata a scegliere una puntata che fosse particolarmente significativa per me, ovvero la puntata a tema fiori. Molto molto carina, spero che apprezzerete. E erano state messe molte canzoni tra vari artisti, Bobby Gentry, Il Giardino Violetto, anche Dorothy Ashby, La Quiete, insomma veramente tante tante artiste, e spero che apprezzerete anche voi. Io ho apprezzato a riascoltarla, perché sinceramente ho conosciuto veramente tanta musica a me ignota, e spero che possa essere lo stesso piacevolmente per voi. Che dire, vi lascerei quindi alla voce di Pink, che vi cullerà per un'oretta e qualcosa di più. E niente, quindi buon ascolto a tutte, tutti, tutto. E rimanete quindi ovviamente sintonizzate, mi raccomando, su Radio Wombat. Ci potete ascoltare da radiowombat.net in streaming, e anche dalle frequenze AM sulle 13:59. Ciao ciao! Got a slick chick, she's a neat chick, but she's what makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. A hot heels on for the very first time. Lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped, we're on a time to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety clicker stitches. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, got a stick chick. She's a neat chick. Well, she what makes me tick. Mama, yeah. Clickety click a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick? Mama, I stick a chick. Ah, yeah. Yeah. A stick chick. Mama. Clickety click a stick chick. Yeah, yeah. I got a crazy little chick. I don't you know she's slick. Ben ritrovate, ben ritrovati alla alla fuga del gatto. Guarda, già sbaglio trasmissione, ormai sono lanciata con la fuga del gatto perché abbiamo ripreso il ritmo e quindi farei sempre la fuga del gatto. No, non è vero, questa è Slick Chick e Radio Wombat. Ovviamente, chissà se i miei volumi sono decenti, mi sa che sto sparando a 2000 col vocione che mi ritrovo, non lo so. E, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno ascoltando post digestione, perché sebbene le 22:30 in tempi normali sarebbero insomma il abbondante post cena, adesso chiaramente si ritorna per chi può da quelle poche sortite fuori casa che riusciamo a fare, allora veloci via dopo il coprifuoco, torniamo a casa, mangiamo al volo e con tutto sullo stomaco. Chi si mette a fare la trasmissione e chi ascoltarla, insomma è un po' così la vita di noi reclusi e recluse in questa apocalisse del 2021. Oggi con Slick Chick parliamo, siccome sì, è passato il 21 marzo, mi rendo conto, e quindi anche da qualche giorno effettivamente, però mi sento sempre abbastanza sul pezzo per poter parlare di primavera, anche perché il caldo, almeno in queste latitudini, in quel del Fiorentino, il caldo sta arrivando adesso, mentre invece il 21 marzo faceva freddo che si abbaiava, quindi direi che adesso invece possiamo, con, come dire, a buon diritto parlare di primavera. Ma siccome per chi insomma mi segue da qualche tempo, forse se lo ricorderà, insomma, Slick Chick ha già trattato del tema della primavera, quindi non è che ora proprio posso ripetermi sempre così, perché poi i miei numerosi fan se ne accorgono e insomma e anzi protestano. No, però posso centrare il tema lo stesso, un po' così di sbieco, ma neanche troppo di sbieco, perché stasera parliamo, attenzione, di fiori. I want you to meet me at my houseboat. You shouldn't wear your little black rubber raincoat. Write you a letter on thin line notepaper, hide it in a tree where the houseboat floats. Pull a pulley bone and make a fat wish. Crawl it in the skillet, gonna catch a catfish. Write you a letter on thin line notepaper, hide it on the table in the catfish dish. Cause it's sweet peony, it's my dream. It's a sweet peony, it's my dream. Houseboat floating down the bayou. I tried to catch a fish and now I think I'll try you. Write you a letter on thin line notepaper in a tree edition in the bayou too. And if our eyelids are getting heavy, or dock our houseboat on the muddy levee. Read all the letters on thin line notepaper, wad them up and meet them on the bayou. Cause it's sweet, Leonie, it's my dream. It's a sweet, Leonie, it's my dream. I want you to meet me at my houseboat. Be sure and wear your little black rubber raincoat. Write you a letter on thin line notepaper, hide it in the tree where the houseboat floats. Cause it's sweet, Leonie, it's my dream. It's a sweet, Leonie, it's my dream. Sweet peone, una dolce peonia. Iniziamo da questo. Bobby Gentry, dall'album Local Gentry del 1968. Anche se a sentirla così, boh, non lo so voi, io avrei detto ben oltre il 68, invece no. Bobby Gentry è il nome d'arte di Roberta Lee Streeter. È una cantante statunitense di origini portoghesi, però, e famosa fondamentalmente per un unico brano, Ode to Billy Joe, che era un brano che poi si ritrovò in testa alle classifiche, forse probabilmente anche un po' involontariamente, sicuramente non l'avrebbe pensato, ecco, Bobby Gentry. Fatto sta che era un brano che raccontava del generale disinteresse con cui viene accolta la notizia del suicidio di Billy Joe, un ragazzo vicino di casa di cui evidentemente non importava molto a nessuno. È la storia un po' così, narrata da questa ragazzina che torna a casa un giorno e davanti alla famiglia a pranzo dice: oh, ma è morto appunto questo Billy Joe, che era il vicino di casa, si è buttato sotto al ponte. E riceve un'accoglienza, la notizia, molto interessata, tipo il padre che dice: ah, vabbè, passami il sale, e la madre che dice: vabbè, va così, e via e via. Insomma, quindi un brano ridente, allegrotto, però ecco, effettivamente, com'è come non è, ebbe un successo insperato probabilmente, e quindi, a dispetto del disinteresse per il suicidio di Billy Joe, invece questa canzone ebbe un grande successo. Vi parlerò in questa scaletta non tanto dei fiori, anche se qualcosina la dirò, ma un po' più della musica e dei musicisti che parlano dei fiori, perché insomma era un po' che non lo facevo, perché non era voluto, ma fatto sta che nelle scorse scalette avevo dato molto spazio al tema, come dire, della scaletta. Questa volta invece voglio usare un po' più il tema, anche perché insomma forse il tema dei fiori è un po' banale, un po' ovvio, e quindi invece vorrei dare un po' più spazio alla musica, che appunto poi, come diciamo spesso qui a Slick Chick, appunto è poi in realtà il fulcro della questione, e il tema spesso è un po' come dire, un po' la scusa per farvi ascoltare un po' di buona musica. Così è anche per il brano successivo di John Fay, Sunflower River Blues, da un bellissimo album, ammesso che ci sia qualche album di John Fay non bello, ma questo è Death Chants, Breakdowns and Military Waltzes del 1963. Gli album che pubblicò negli anni 60 John Fay utilizzano per lo più accordature e ritmi inconsueti, riprese delle tecniche blues degli anni 20, che poi rimanevano un po' la base della sua musica, che sono state, si ritrovano un po' in tutta la musica appunto di John Fay. Le sue influenze però spaziavano veramente dai generi più assurdi, dalla musica sinfonica di Ralph Vaughan Williams al blues di Skip James, ma anche altri bluesmen e blueswoman molto, molto più sconosciute, dal canto gregoriano, ai cori tibetani, ma anche la musica sperimentale di vario tipo. E John Fay in questo, insomma, diciamo che fece abbastanza scuola nell'esplorare veramente di tutto quello che riusciva a carpire. E sinceramente è veramente difficile, io ho una grossa difficoltà a raccontare John Fay in poche parole, perché non, lo sapete, insomma, l'ho confessato molte volte a questi microfoni, non sono brava nel fare queste cose, perché c'è questa cosa che il linguaggio dei critici musicali mi fa sempre ridere, questa cosa che si inerpicano in queste descrizioni fantasiose degli arpeggi di chitarra, questo e quello, a me fa ridere, quindi non ce la faccio. Però posso dire che non era affatto detto che ci si ricordasse di John Fay nella storia, diciamo, nonostante la meravigliosa musica che ha inventato e suonato. Pare che in realtà sia sempre un po' stata una persona schiva, modesta, un po' assorta, quella che potremmo dire un po' la sua passeggiata interiore, e dice che tra gli altri, pochi peraltro, sono stati Sonic Youth a sostenerlo e rispolverarlo in qualche maniera. E boh, che vi devo dire, semplicemente boh, non lo so, a me è una musica che fa un'enorme compagnia nel senso più profondo di questa parola, e quindi boh, al di là di tutti poi i sofismi, le sbrodolate sulla tecnica che potremmo fare, che assolutamente non farò, godetevela, insomma. Quindi dicevamo, come era, da Sunflower, già non mi ricordo più, Sunflower, River Blues di ovviamente John Fay. Thank you. siccome così probabilmente questi brani, questo inizio di scaletta di oggi dedicata ai fiori era un po' così, un po' tenerona, soft, così, e vi, appunto vi faceva digerire, vi teneva compagnia, ecco adesso vi metto due pezzi che probabilmente vi fanno andare tutta la cena di traverso e mi odierete per questo, ma sono molto belli entrambi e quindi ve li beccate lo stesso. E prima di farlo però, siccome mi sono dimenticata di farlo in apertura, lo faccio adesso. Vi ricordo i contatti di Radio Wombat, ovvero innanzitutto il sito radiowombat.net, dalla quale potete ovviamente raggiungere lo streaming della radio, ma anche il tutti i podcast, tutte le trasmissioni. Potete ripassarvi il palinsesto per ricordarvi quando va in onda quella determinata trasmissione. E poi vi ricordo anche la casella di posta, postawombat@insiberia.net. Vi ricordo anche la frequenza in onde mediocri, la 1359 AM appunto. Ma come ormai sapete, da qualche settimana siamo tristemente cappottati e non sentirete nient'altro che un fastidioso coso così. Però ci stiamo lavorando alacremente, i vostri wombati tipo sono in modalità Oompa Loompa e stanno lavorando per ripristinare la situazione. E quindi, bello, sembrava un po' tecnici della Telecom, non è vero, lo scenario è tutt'altro, ma insomma a breve il Wombat tornerà a ruggire sulle onde mediocri, sappiatelo, e rimanete con la vostra radiolina pronta. Quindi dicevamo, questi erano i contatti, il mio l'ho fatto e adesso continuo con la scaletta, e che deve transitare, siccome si parla di fiori, la scaletta di oggi doveva per forza passare dal giardino violetto, perché in effetti non si tratta di un singolo fiore qui, ma di un intero giardino violetto, quindi un po' goth, un po' cupo. E il giardino violetto ve ne ho già parlato diverse volte, l'ho già fatti sentire a Slick Chick, quindi più affezionate le più affezionate lo sapranno, ma in ogni caso è un gruppo che nasce nel lontano 1988, devo dire, e ha questo sviluppo un po' strano, perché non aveva mai registrato dischi, nonostante avesse ottenuto direi buonissimo successo al tempo. Era un gruppo che era piaciuto tantissimo e non a caso, però non ho mai registrato, e nonostante avessero fatto diversi live, credo diversi, ora mi viene il dubbio, insomma comunque non avevano registrato, e hanno registrato a distanza di quasi 30 anni dal primo demo che invece avevano fatto al tempo. Sì, il demo l'avevano fatto in effetti, però esce invece a distanza di quasi 30 anni il primo vero e proprio album ufficiale con tutti i fiocchi e tutti i crismi, e esce nel 2019, che si chiama per l'appunto Giardino Violetto, e vi invito ad ascoltarvelo integralmente e anche a scaricarvelo, perché come è giusto che sia, finalmente un gruppo mette a disposizione la propria musica, non di sgambo ma proprio così, liberamente, ufficialmente, senza mezzi termini, e lo fa finalmente attraverso un sito internet, un vetusto sito internet, ilgiardinovioletto.noblogs.org. Vi invito a darci un'occhiata, a sbirciarlo e ascoltarvi tutto l'integrale disco di questo gruppo molto molto bello che ci manca. È passato dalle nostre parti fiorentine ormai qualche anno fa, e chissà, magari a breve possiamo sperare di averli con noi. Intanto ci ascoltiamo La legge del padre, non c'entra niente con i fiori, ma già l'avevo giustificata la presenza loro col titolo del gruppo stesso, e quindi chi se ne frega, la filologia è rispettata e siamo tutti molto contenti e contente. Thank you. No, comunque vi avevo avvertito, non è che non ve l'avevo detto, cioè, se non mi credete, così era. Però questo era il verso del vombato che canta. No, non è vero. Era Iwan Kang, che è un violinista, ma anche un fastidiosamente polistrumentista, che ha fatto cose con John Zorn, e qui scatterebbe un ma dai, e molti altri nomi, nomoni vari, eccetera. È un statunitense di origini però coreane, e anche qui scatterebbe un altro ma dai. Ed è questo brano che ci siamo ascoltati, si intitolava Dancing Flowers. No, cioè, e ve l'ho voluto mettere anche perché, cioè, per darvi l'idea che alla fine, cioè, non è che i fiori, le immagini floreali, come dire, evocano sempre gli stessi pensieri a tutti e tutte, ecco, cioè, c'è chi i fiori gli evoca questo, no? Beh, e questo, insomma, Dancing Flower era tratto dal primo disco di Iwan Kang, che io sto chiamando così senza sapere assolutamente che cosa sto dicendo, ovviamente, ma facciamo finta, e che si chiamava Driftwood and Dreams del 1995. Devo dire che i suoi lavori non sono tutti così estremi, anche se, insomma, poco ci manca, però, insomma, c'è anche cose molto varie, alcune delle quali anche molto orecchiabili. Ma, insomma, se siete incuriositi, andatevi a cercare il nome, che al di là della mia pronuncia verrà scritto poi sulla scaletta, sul sito di Radio Wombat, e quindi potrete controllare meglio cosa ho detto. Proseguiamo adesso nella nostra scaletta, che vi prometto essere a questo punto più rilassante, in discesa e senza più grossi strattoni, e giusto per, appunto, curare le vostre orecchie sanguinanti, vi propongo Dorothy Ashby, che vi ho già fatto ascoltare in un'altra scaletta, se non sbaglio, ma questa volta ci stava proprio bene perché ha intitolato anche lei un brano a un fiore, in questo caso a un girasole. Beh, l'avete visto, già ne avevamo parlato dei girasoli anche con Don Fay, però è un fiore che, insomma, ricorre molto nella musica, in qualche modo anche, ovviamente. Little Sunflower, appunto, questo brano tratto dal disco del 1968 Afro Harping. Dorothy Ashby era un'arpista di Detroit, e, insomma, diciamo che riuscire a infilare l'arpa nel jazz era considerato un po' un azzardo, anche in quegli anni, dove eppure si sperimentava non poco, un po' perché si tratta di uno strumento che richiede un'abilità notevole di suo, ma in particolare anche per armonizzarsi con gli standard dell'improvvisazione jazzistica, e un po' anche per il rinomato scetticismo snob di cui il mondo della musica è sempre stato intriso, specie, mi viene da dire, se a proporre gli azzardi è una donna. In più, di origini afroamericane, e si chiude il cerchio. E però, diciamo, Dorothy Ashby ha tirato fuori delle cose talmente belle che non si potevano evidentemente ignorare. Nonostante, purtroppo, se poi andiamo a vedere, pare, appunto, leggevo che in realtà di tutta la musica che ha fatto, purtroppo molto poca è arrivata fino a noi, cioè poche cose sono state registrate, e, insomma, ovviamente se ne sa molto meno rispetto a quanto se ne dovrebbe sapere e ascoltare. Questa però invece si può ascoltare, ed è Little Sunflower, come vi dicevo, ripeto, di Dorothy Ashby. Thank you. Adesso in scaletta è il momento della quiete e Madonna quanto mi manca la quiete e poi gruppi di quel tipo. In particolare l'occasione è il brano Fiori Neri per Ivanilic dall'album Tempeum del 2006. La quiete era un gruppo. È un gruppo, ma chissà, non penso suonino ancora, ma vabbè, di Forlì, di quel di Forlì, che suona dal 99, ben dal 99, gruppo Scrimo, tutta quella scena là. Questa in particolare, quest'album è una raccolta che la Quiete hanno fatto uscire appunto come dicevamo nel 2006 e che però sono appunto una raccolta di pezzi registrati a partire dal 2001. E così forse non si capisce ascoltando soltanto le grida dentro questa canzone, però il testo dice: non vi è più non vi è musica più dolce delle tue grida, ad ogni frase una mossa improvvisa disorientante. E l'altro passaggio, insomma, l'altra scusa che ci offre questo brano è parlare anche di Vanillic, perché scusate, cioè me la servono così su un piatto d'argento. In particolare vi leggo questo pezzettino che secondo me dice tutto. Il passaggio dalla produttività alla convivialità significa sostituire ad un valore tecnico un valore etico, a un valore materializzato un valore realizzato. La convivialità è la libertà individuale realizzata nel rapporto di produzione in seno a una società dotata di strumenti efficaci. Quando una società, qualunque essa sia, reprime la convivialità al di sotto di un certo livello, diventa preda della carenza. Infatti, nessuna ipertrofia della produttività riuscirà mai a soddisfare bisogni creati e moltiplicati a gara. E direi che non c'è bisogno di dire altro. In particolare, bellissimo il manifesto dei descolarizzatori di Vanillic, o anche peraltro direi praticamente tutto quello che ha scritto sulla critica agli strumenti tecnologici. Tra l'altro, cosa che mi ha fatto cascare dalla seggiola, Ivan Illich ha frequentato il liceo scientifico Leonardo da Vinci a Firenze nel 1941. E vabbè, cioè, vabbè, a voi magari non vi dirà niente, ma a me mi ha abbastanza fatto sgranare gli occhi e spalancare la mascella. Tant'è. E quindi però dicevamo, questi invece sono la quiete. Yeah. In questa scaletta di oggi dedicata ai fiori c'è spazio anche per gli Esursen de Neubauten. No, vabbè, non, dai, non dovete avere paura. Vi avevo promesso che non avremmo mai toccato gli apici di prima e ve lo riconfermo, non è così tremendo. Il prossimo brano si intitola Bloom in tedesco, chissà se si pronuncia così, boh, vabbè, vado sempre un po' a caso. Vuol dire fiore. Ed è anche, fra l'altro, il nome di un botanico tedesco vissuto nella prima metà dell'Ottocento, no? Che era un po' come il capo della polizia che si chiamava Manganelli, no? Se vi ricordate, è tutto molto buffo e così, che bello. Allora, vi leggo però il testo di questa Blume perché è bellissima, e quindi per una volta poi ci dà la possibilità di parlare per davvero dei fiori. Crisantemo, per te sono un crisantemo, supernova, stella urgente, Astera composite, per te sarò un dente di leone, mille fiorellini nel cielo o solo una goccia nell'oceano. Se conosci il mio nome, non parlarne, detiene un potere, come prima. Liliacea, un mughetto, un fiore di Saron. Elianthus annus, per te sono anche un girasole, senti la mia risata illuminante? Un altro motivo per tagliare un orecchio. Conosci il mio nome, vero? Non dirlo, perché è sacro, inamovibile, congelato. Rosa, anemone, ninfea alba. Sarò anche una ninfea, una calendula, una rosa o un piccolo cardo. Euforbia, una dahlia blu, un tulipano nero. Ecco dove le opinioni divergono. Gli studiosi non sono d'accordo. Il mio nome, dovresti saperlo, rimane indicibile e una detta maledizione. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Astera. For you, I'd be a dandelion, a thousand flowerets in the sky, or just a drop in the ocean. The scholars disagree. Beh, e adesso invece è il momento di un brano che secondo me non conoscete e un cantante, un musicista che secondo me non conoscete e che secondo me adorerete, probabilmente correrete a scaricare tutto quello che si trova di quello che ha fatto. Sto parlando di Tiny Tim, che ci offre in questo brano la sua interpretazione di un brano che in realtà non è suo e che si chiama Tiptoe Through the Tulips, in punta di piedi attraverso i tulipani. Tiny Tim era nato da padre libanese e madre ebrea. E poi a un certo punto decide di assumere il nome d'arte Tiny Tim, prendendo un personaggio, un modello in qualche modo, un personaggio del canto di Natale di Charles Dickens, The Christmas Carol. Il suo stile, lo stile di Tiny Tim, lo sentirete, si distingue per un uso molto acuto del falsetto e per l'accompagnamento con l'ukulele. Ma detta così, non vi assicuro che non rende, no, proprio non è abbastanza. Così, giusto per partire dalla nascita e arrivare subito diretti alla morte, muore il 30 novembre del 1996 a causa di un attacco cardiaco durante un'esibizione all'Ukulele Hall of Fame di Cranston nel Rhode Island. È uno di quei personaggi che sembrano usciti da un film, o da un libro anche, o da una storia incredibile e malinconica, forse un qualche personaggio di Tim Burton. Cioè, la famiglia era emigrata dalla Bielorussia e quando appunto Tiny Tim aveva 10 anni, nel 1914. Il padre era un operaio tessile e libanese in realtà, e il nonno invece era un prete cattolico maronita. E Tiny Tin passa l'infanzia e l'adolescenza a studiare incantato i dischi. C'avrà proprio una passione per i dischi fisici, i vinili. Passava le giornate in biblioteca a fotografare gli spartiti in modo da poterseli ristudiare a casa, studiandoseli insieme ai dischi. E a un certo punto inizia piano piano a studiare vari strumenti, prima al violino e poi passa all'ukulele. A un certo punto, pare ascoltando la radio da un brano, non ricordo più quale, scopre il falsetto e posso in realtà veramente solo vagamente immaginare quanto questa scoperta sia intimamente liberatoria per un uomo. E Tiny Tim a questo punto si lascia crescere i capelli, come ha visto in un poster di Rodolfo Valentino, si tinge la faccia di bianco e sua madre, ovviamente, che fa? Lo spedisce dallo psichiatra. E lui, ovviamente lo dico con ironia, si intende, e lui comincia la sua strada a quel punto vera e propria nei bar queer del Greenwich Village. Boh, qualcuno di quegli strani scherzi del destino, che evidentemente a volte capitano, finisce in televisione boh, non lo so, in una strana alchimia, non lo so, dove c'è queste immagini, dove c'è un Joker deriso, preso in giro e poi il Joker ti guarda fisso di sbieco nell'inquadratura e il suo viso raggela il pubblico, ecco, allora poi a quel punto è Joker che ride e il pubblico, rimane col sorriso invece un po' congelato. Ecco, esattamente questa immagine è quella che potete andare a vedere con i vostri occhi se cercate Tiny Tim banalmente su YouTube e quel sorriso enigmatico, meraviglioso, lo sentirete poi anche adesso nella sua bellissima musica. With me, oh, tiptoe round the garden, by the E questa era Single Petal of a Rose di Duke Ellington, bellissimo, a me piace da morire. È il pezzo centrale di The Queen Swift Six Songs, scusate, The Queen Suite, e erano appunto sei canzoni che che appunto Duke Ellington aveva composto insieme a Billy Strayhorn per la regina Elisabetta nel 1958. Allora, mancano un paio di pezzi alla fine di questa scaletta e direi che chiudiamo in grande stile. Questo è un brano che non potevo non mettere in qualche maniera, strafamoso, anche perché, insomma, concedetemi qualcosa di super così pop, anche volendo, magari, no, non è vero, non è pop, però sicuramente molto noto, in una scaletta che invece ha avuto molte cose strane. Ecco, ovviamente ho messo Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone, che vabbè, se non ve la ricordate, appena inizierà ve la ricorderete. Vi leggo paro paro quello che si trova sul imprescindibile anti-war songs, antiwarsongs.org. E allora, il testo, questo qua, che poi appunto cita anche il testo, tra le, di questa canzone, che tra le più celebri canzoni contro la guerra di ogni tempo, è di Pete Seeger, anche se le versioni più note sono probabilmente quella cantata da John Baez in inglese e soprattutto la versione tedesca interpretata da Marlene Dietrich. In realtà, se ve la devo dire tutta, io mi ricordavo molto meglio quella proprio di Pete Seeger, ma vabbè, sono io che sto strana. Secondo la sua stessa ammissione, Seeger si ispirò a un brano del Placido Don dello scrittore russo Mikhail Solokhov, che ottenne per quest'opera peraltro il premio Nobel per la letteratura nel 1964, dove si riportavano tre versi di una canzone popolare ucraina il cui testo Seeger cercò infruttuosamente per anni, ma conservò quei tre versi sperando di poterli comunque usare un giorno. Cosa che fortunatamente avvenne dapprima in sordina in un album rimasto quasi oscuro, Rainbow Quest. Passata pressoché inosservata, fu incisa nel 60 a loro nome dai Kingston Trio, che l'avevano sentita ed ignoravano totalmente che la canzone fosse stata scritta e incisa da Pete Seeger 4 anni prima. Addirittura affermarono che pensavano fosse una canzone popolare. Fu una telefonata di Pete Seeger a risolvere la cosa. La musica, sempre come raccontato da Pete Seeger, è ripresa da una versione invece lumberjack di una canzone popolare americana, Drill You Terriers Drill. Per il ciclo Italiani Povera Gente, un ciclo che vi ripeto un giorno riprenderemo per vostra somma gioia, è d'obbligo citare anche la versione di Dalida, dove viene trasformata questa nota canzone in Chi mai lo sa che sarà del nostro amor e bla bla bla bla bla. Ma a dire il vero, in versioni più o meno filologiche, appunto, questo pezzo è stato rifatto in praticamente ogni lingua e angolo del pianeta. Abbiamo citato prima quelle più ovvie, però in realtà veramente dal giapponese al thailandese a qualsiasi lingua, effettivamente è stata forse una delle canzoni, penso, più cantate in qualsiasi lingua, almeno quelle che mi vengono in mente a me. Quindi a questo punto non ci resta che ascoltarcela, direi. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Beh, Bene, direi che siamo alla chiusura, siamo in chiusura di questa scaletta di oggi dedicata ai fiori di Slick Chick per festeggiare in qualche modo un po' la primavera che magari ci porterà un po' di sole, un po' di caldo e magari farà andare via pure sto maledetto virus, chissà. E però come tutte le scalette Slick Chick, prima della conclusione vi lascio con un ultimo brano e questo è il brano che ho scelto per concludere in bellezza, direi, è Flores Negras, che è un bolero composto da un musicista cubano, Sergio De Carlo, e pubblicato nel 1937. Ne esistono moltissime versioni, direi tutte molto belle, fra l'altro, almeno quelle che ho ascoltato, e però quella che ho scelto è la versione di Lidia Mendoza. La canzonera de los pobres, perdonate anche qua la mia pronuncia orrida, suonatrice di chitarra a 12 corde, con la quale accompagnava la sua splendida voce, per l'appunto. Lidia Mendoza è nata a Houston, in Texas, ma di origini, ovviamente, che ve lo dico a fare, messicane. C'è un episodio tra quelli noti che ha insegnato, come dire, a Lidia Mendoza come funzionava il confine tra Messico e Stati Uniti. Lidia era una bambina che rientrava in Texas con la sua famiglia, perché appunto abitavano al confine, e quindi chiaramente, ovviamente, si faceva avanti e indietro. E in uno di questi rientri, gli agenti dell'emigrazione sul lato texano del confine, cioè, no, scusate, non in una, sempre, diciamo che era uso che gli agenti dell'immigrazione su appunto il lato texano, era uso, cioè, diciamo che erano di solito cospargevano i messicani che attraversavano gli Stati Uniti con la benzina, per impedire che eventuali infestazioni da pidocchi, entrassero negli Stati Uniti. Questa era una cosa carina, così che facevano. Durante appunto uno di questi rientri che vi dicevo della famiglia di Lidia, durante uno di questi rientri in Texas nel 1920, gli agenti dell'immigrazione fermano la famiglia e conducono Lidia, che al tempo era una bambina, la conducono in una stanza con va delle vasche enormi di benzina, le lavano a forza i capelli con la benzina e le gettano la benzina addosso. Inoltre Lidia, insomma, questo capitò a lei, ma vide intorno a sé anche dei bambini immigrati immersi nel tutto in vasche di benzina. Quindi c'era questa usanza così che, appunto, a quanto si racconta, le insegnò un pochino a come funzionava il mondo, almeno quella parte di mondo in quel momento, non che adesso invece funzioni in maniera poi tanto diversa. Suo padre lavorava come meccanico per le ferrovie. E per molti anni l'unico pubblico di Lidia furono i lavoratori immigrati al confine tra Texas e Messico. Con l'orgoglio crescente di suonare una lingua e dei simboli di fronte a una comunità interamente non bianca. Questa quindi è Lidia Mendoza, la sua versione di Flores Negras, e con questo vi do la buonanotte, do l'appuntamento anche a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 10:30, sempre ovviamente su Radio Wombat con Slick Chick. Ciao ciao! Victor 75786-B, matrix number BS014170-1, Flores Negras, Liria Mendoza. Adoro, en un beso sagrado podrán mentir. daño tus manos, me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus labios que saben mentir. A mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Aunque viva prisionero en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios eccomi di nuovo qua a fine puntata. Quindi avete appena sentito una puntata di Slick Chick di qualche tempo fa, quindi con la voce di Pink, mia collega, compagna radiofonica, puntata di Slick Chick che era a proposito dei fiori in tante varie sfaccettature, come avete sentito, e come vi dicevo in apertura, quindi abbiamo potuto sentire diverse musiche, tante musiche diverse, di oltretutto generi che io di solito non passo in alcuni casi, quindi mi ha fatto piacere anche questo, diciamo, rispulciare questo contributo proprio per questo motivo, per accrescere, diciamo, le mie e spero anche le vostre conoscenze musicali. Dunque, io quindi vi saluto, ci ritroveremo lunedì prossimo, sempre alle 19 su Radio Wombat, come sempre con Nervature, e chissà che cosa ci attenderà, cosa ci porterà il destino per lunedì prossimo, non lo so ancora neanche io, come sempre, ma sicuramente mi troverete. E questo, diciamo, questa metodologia di ripassare puntate di altre trasmissioni di Radio Wombat o di altre radio sorelle, come vi dicevo, proseguirà durante il resto dell'estate, quindi alternerò facendo un po' così, un po' puntate mie. Comunque continuerò assolutamente a tenervi compagnia fino a fine estate, perché se no, voglio dire, quando siete al mare, che cosa ascoltate? Solo bobina non va bene, ovviamente dovete continuare a avere un supporto in diretta o registrato che sia, sempre dalle nostre trasmissioni. Quindi rimanete connesse e connessi su Radio Wombat, mi raccomando, per sentire tutto il resto del palinsesto. Io vi saluto con un ultimo pezzo, visto che Pink con Slick Chick ci ha accompagnato tutto questo tempo con tutti questi ricchissimi brani, vi saluto anch'io con un ultimo brano, sempre nello stesso ambito, sempre dello stesso argomento, e infatti provate un po' a indovinare di che cosa parlerà questo brano che vi mando in chiusura. Dove stanno i fiori? Pink ci ha parlato di fiori, ma dove stanno di solito tutti i fiori? Dov'è che a noi umani piace vedere un'esuberanza di fiori? Beh, proprio nel giardino. E quindi io vi parlo spesso di giardini e lo farò anche tramite quest'ultima canzone di chiusura, che è per l'appunto The Garden, del grandissimo Bobby McFerrin. Quindi canzone all'interno dell'album Medicine Music del 1990, canzone veramente piacevole, lui lavora tutto sulle voci, quindi vabbè, probabilmente lo conoscerete già. Che dire, quindi buon ascolto e ci risentiamo con Nervature lunedì prossimo alle 19. Buona serata a tutte e tutti. And there was day and there was night. And there was dark and there was light. And there was the earth, there was the sky. And there in the tree there crawled a lie. There in need and there was good. There in the garden where the tree of life stood. There the snake was, there was pain. And we're trying to get back to the garden again. Woo!